Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 8. La settimana seguente tutto il gruppo fu molto impegnato. Io ero così presa da Otto che non badai a quello che facevano. Di notte Otto mi dava prova del suo amore, ma durante il giorno era quasi distaccato, non si mostrava affettuoso e non mi dava confidenza. Dei traffici della banda non parlava affatto, ma anche gli altri stavano zitti. Andavano e venivano con valigie e borse, di tanto in tanto capitava un tale, un ricettatore, ma questo lo scoprii dopo. Con il quale trattavano il prezzo della merce che poi regolarmente gli vendevano. Io non facevo caso ai prezzi. Ricordo soltanto un bellissimo vestito trasparente di velluto, marcato $85, che accettarono di vendere a 25. Il ricettatore sosteneva di non poterlo pagare di più, altrimenti poi non avrebbe potuto ricavarne alcun profitto. Per quanto riuscii a sapere, la banda chiedeva solitamente un terzo del prezzo segnato sull'etichetta, ma spesso l'acquirente sborsava molto meno. Dopo aver battuto per una settimana la piazza di Chicago, il gruppo decise che era ora di mettersi in viaggio, con Jimmy e Jake, entrambi proprietari di un'automobile. Partimmo al mattino seguente, Anna e Jake su un'auto e Lucille, Jimmy, Otto e io sull'altra. Ci fermammo in Bloomington e a Springfield, dove i ragazzi fecero man bassa nei negozi a Springfield. Otto mi prese una bellissima borsetta da $50. Sembrava così facile, semplicemente uscivano e tornavano poco dopo con la roba. Io non volevo rubare, ma non mi dispiaceva vedere come si faceva. A St. Louis andammo allo Starlet Hotel e prendemmo 3 camere sullo stesso piano. Il giorno seguente era sabato e i ragazzi si diedero da fare nei negozi fin dalle 7 del mattino. Io rimasi in albergo. Verso le 3 del pomeriggio arrivò Lucille con 3 vestiti. Mi disse che Anna era stata pizzicata nel famous bar store. Dovevo fare subito una telefonata per tirarla fuori. Andammo in un drugstore con il telefono. Lucille compose un numero. Chiese di un certo signor Miller. Gli disse che Anna era nei pasticci e che lui avrebbe avuto i suoi soldi non appena l'avesse fatta rilasciare. Tornammo all'albergo e trovammo gli altri. Quando Lucille raccontò loro l'accaduto, non si scomposero. Semplicemente si prepararono a mandare avanti i loro piani, ben sapendo che restare con le mani in mano non avrebbe giovato e che nell'attesa avrebbero potuto fare un po' di soldi. Chiesi a Otto di portarmi con sé. Sulle prime rifiutò, ma io insistei e supplicai. Non me la sentivo di starmene chiusa in camera. Non sarei stata d'impiccio. Volevo soltanto accompagnarlo. Va bene, puoi venire fino ai negozi, ma non far capire che mi conosci. Qualunque cosa tu veda e qualunque cosa accada, mi disse. Mi lasciò all'altezza di Styx, Bayer Fullers. Comprai un paio di cartoline all'angolo e andai a spedirle nell'ufficio postale lì accanto. Quando tornai fuori, attraversai la strada e vidi Otto uscire dal negozio e voltare in direzione dell'albergo. Lui non mi vide, ma non vide neppure i due uomini che lo seguirono fuori dal negozio e per la strada. Affrettai il passo con l'intenzione di raggiungerlo e di avvertirlo. Ma poi rammentai le sue istruzioni e non dissi nulla. Anche se varcammo la soglia dell'albergo a pochi metri di distanza l'uno dall'altra. Otto entrò subito nell'ascensore che stava salendo proprio in quel momento. I due pedinatori si fermarono a parlare con il detective dell'albergo e io, approfittando dell'occasione, andai al telefono e chiamai la camera di Lucille. Rispose Jimmy. Ci sono due uomini che stanno seguendo Otto. Avvertii, poi interruppi subito la comunicazione. Quando gli agenti perquisirono la nostra stanza, trovarono soltanto i 20 dollari che Jimmy diede loro. Fuori dall'albergo mi ritrovai con gli altri e, a eccezione di Otto, che aveva tagliato la corda in fretta e furia, dopo aver concordato con Lucille un appuntamento a Indianapolis. Andammo in auto al Jefferson Hotel, dove avremmo dovuto incontrarci con Miller, il maneggione. Costui arrivò con Anna. Soltanto dopo le 7, Lucille, Anna e Miller andarono al ristorante a risolvere l'aspetto finanziario della faccenda e io rimasi nell'auto con i ragazzi. Partimmo la sera stessa per Indianapolis e arrivammo al mattino seguente molto presto. Trovammo Otto al Claywood Hotel, dove si era registrato sotto nome falso, concordato in precedenza. Quella notte, mentre viaggiavamo da St. Louis a Indianapolis, mi resi conto di essere stata presa in una rete. Era una rete eccitante, che mi dava tutta l'azione che volevo e anche il piacere di un amante. Ma in fondo fare parte di una banda di delinquenti non mi piaceva. C'era qualcosa dentro di me che si ribellava. Quando ci registrammo all'albergo, scoprii che Otto aveva già dato il mio nome, facendomi passare per sua moglie. Era in camera e dormiva ancora. Lo svegliai e mi disse: Oh, ciao, vieni. Poi si girò dall'altra parte e continuò a dormire. Ma io volevo parlargli. Delusa e irritata, lo scossi dicendo: Otto, non sei contento di vedermi? Certo che sono contento, ma sarei altrettanto contento se anche tu venissi a letto. Lo osservai mentre dormiva. Il viso era più giallo del solito e aveva un'espressione tesa, preoccupata. Mentre lo guardavo, pensai che non ero molto importante per lui. Mi domandai se a sua volta Otto fosse veramente importante per me e se tutto non si riducesse alla novità di vivere con un ladro. Mi coricai al suo fianco, decisa a fargli smettere quella vita oppure a lasciarlo. Ma prima che fosse mattina, si rivoltò nel sonno e venne verso di me. Quando lo strinsi tra le braccia, non desiderai altro se non di proteggerlo da qualsiasi pericolo. Otto, pensi che dovremmo andare avanti molto in questo modo? Gli domandai mentre facevamo colazione nella sala da pranzo dell'albergo, illuminata da una luce rosata. Di che cosa ti lamenti? Mi rispose. Non ce la passiamo bene? Non hai tutto quello che ti serve? Che cosa vuoi? Se non posso rubarlo, te lo compro. Non mi piace il modo in cui vivi, protestai. Non mi piacciono queste fughe per il rotto della cuffia. Senti, piccola, se avessi la certezza di farla franca, sempre per un pelo, ci farei la firma, disse duro. Fughe per il rotto della cuffia sono niente, il guaio è quando ti beccano. Ma improvvisamente mi fu molto caro e non potei trattenermi. Amore, non potresti trovare un lavoro? Così io e te potremmo sistemarci. Mi guardò freddamente, come se fossi nulla per lui. Che cosa hai letto ultimamente? Il manuale della brava massaia? Chiese sarcastico. I pochi giorni che trascorremmo ancora a Indianapolis furono in tutto e per tutto uguali ai precedenti, ma vista la reazione di Otto non osavo più chiedergli di smettere. Me ne stavo in albergo a far niente, sempre con l'incubo che accadesse qualcosa al mio uomo. Da Indianapolis ci trasferimmo a Pittsburgh, poi a New York. Lì mi accorsi per la prima volta che la banda evitava il più possibile di parlare dei suoi affari in mia presenza. Il giorno che partimmo, Otto mi fece una sorpresa. Tirò fuori una pelliccia e me la buttò dicendo: Toh, guarda se ti va bene. Non ne avevo mai posseduta una, e sul momento, prima di rendermi conto che altre non avevano neppure un cappotto, ne fui felicissima. Buttai le braccia al collo di Otto, ma lui si infastidì. Piantala, disse brusco. Non siamo mica in un film. Rimasi 6 mesi con la banda. Ci spostavamo da una costa all'altra e dopo un po' quella vita cominciò a sembrarmi monotona. Ogni poche settimane Otto mi dava dei soldi da spedire alla mamma e a Ena. Ma non potevo dir loro come li avevo avuti e questo mi deprimeva. Era la prima volta che nascondevo qualcosa a mia madre. Tuttavia, sentivo che la convivenza con quel gruppo di malfattori mi aveva dato molto. Avevo sempre voluto conoscere più da vicino, nell'intimo, il modo di vivere dei delinquenti e ora lo conoscevo. I libri che avevo letto e gli studiosi con i quali avevo parlato tendevano a dare l'impressione che i criminali professionisti fossero persone diverse dalle altre. Davano a intendere che i delinquenti fossero differenti dalla gente normale, nell'aspetto e nel modo di vestire, e che usassero anche un linguaggio particolare, ma la mia esperienza dimostrò che non era così. Quando Lucille mi aveva fatto conoscere i suoi amici e poi molta altra gente del giro, amici degli amici, avevo provato una grande emozione e mi ero prefissa di imparare tutto il possibile su quell'ambiente. La mia prima reazione però era stata di stupore, sembravano tutte persone rispettabilissime. Ai ladri principianti piacciono le cose pacchiane, sgargianti. In particolare le donne amano indossare abiti vistosi e alcuni dei gioielli che rubano. Le dilettanti si pitturavano e si truccavano come tante entreprenese, ma ben presto scoprono, e spesso a caro prezzo, che questa abitudine non è soltanto di cattivo gusto, ma anche assai poco prudente. Se vuole operare con successo e a lungo, il ladro, uomo o donna che sia, deve assumere un aspetto il più possibile anonimo. Con l'esperienza scoprirà che i vestiti pacchiani hanno sempre un mercato nell'ambiente del vizio. Nelle bande criminali, invece, sono malviste, persino le donne che si limitano a possedere abiti e gioielli vistosi, anche se non li ostentano. Libri ribelli. Libri ribelli.